Ma io faccio da te! Oh, fai con me, sia solito in civile! Gianna! Gianna, Gianna, che ci facciamo male! Signora? Signora, scusate, e poi non stavate più dietro? No, signor Rover, ma ci ha visto proprio con chi storce, si deve durare nulla! Signor, è inutile che Luca, di un momento ha paura di nessuno! Ma voi non ci capite, ha approfittato con mezzo casino con due guaglioni! Non lascia perdere la signora, ma vada aggressiva, è pure bella massiccia che si dice fa male a tutti. No, signor, non ci vitti casi di giatta, ci vitti casi di una bella ciascione in carne. È un complimento, signor. Toto, era pure questo. Mi ratta, mo se fa con brichi. Come dice tu? Sposta. Scusa, la violazione, signor. Che è, ma perché la volta, eh? Ma bimbo, non può passare di qua. Sì, sì, sta zitto, mo. La violazione, ce la voglio passare. Toto, vieni a casa, ma chi mi cerca? Mi pare che stiamo un po' più là. Sì. E poi passo pure un po' per aria. Ma non aveva rispettato la fine, tu? Quando ci va, ci va. Perché dimmi qualcosa a ricerca? Io? Io te ne ho coraggio. E che ti viene a ridere, mo? Niente. Sto pensando alla prima volta che mi metto qua sotto. E beh? Come era fissa di noi. E che c'è voluto la guerra per non far capire? Pazzi, pazzi tu. Intanto nessuno si immaginava che facevamo questa fine, la guerra era lontana. Ma tu ti ricordi la prima volta che suonare la sirena? Ecco, ma no. Quella era inizio giugno. Gli avevamo tutto quanto guancio guancio rindo ricordo. Paremo che stiamo andando a fare scampagnate. E te credi che era solo una simulazione? I miei amici avevano bombardato veramente. Pareva una precauzione esagerata, tanto la guerra era lontana. E invece mo stiamo più cadinti da rindo a casa nostra. Vieni, o scelmi la ciacambesta, non puttana, la ci faci male. Ma quanti bombardamenti è stato? E chi lo sa? È un bazzeccato il cuore, facendomi respirare. Mamma mia, ma non ci sono, ci sono gli americani, i tedeschi, gli inglesi, ci sono. Dodo, ma che cagni, che le bombe sono tutte stesse. Ma lui, la guerra non era fornuta. Ma la domanda è che le stanno in cima. Come? Ah, non stiamo giù che i tedeschi, ma gli inglesi e gli americani. Scatto fuscio e piglio primera. Sì, ma dove stanno questi nuovi alleati? Che a me mi pare che non è cambiato niente. Anzi, che è a Marete invece è a Nanza. Ma tu che dici? Quello è il colonnello Scholl, che è una persona seria, ha pigliato il comando assoluto della città di Napoli. Basta stare calmi e sereni, essere ragionevoli. A questi ricissa! Urnute e mazziate, tieni! Ma non ha capito proprio niente! Niente proprio! Oh, che una zuffunna! E non sto senza ombrella! Gianna, Gianna! Niente! Si è diventata proprio una piccola comunità sotterranea. Che l'avrà vista e che l'avrà fatta. Ui, pe ce? Mă bagă din tubații. O nenică, nu, nenică. Ți-i dat ceapă. Poate-i creadul mă răgașă stană, Dodo. Dar nu-mi s-a nimeni, dă-i. Fațeli, gheane, rin. Fa mega vrici. S-a tutu-o chestii creadul. E mane face lui șporc. E vestit de straciată. Te nu însembă famă, pubril. Doar nu s-a negreau el. Chiar cu Sibela sta ca cu tutte compagnie li aveva bicini. Senta, venga, pensi. Sto ancora qua, se vivi, voglio ancora. Fa freddo, a notte nera, ma non è fornuta. Ci astrenimmo, ci capimmo, noi non siamo solo. Sono l'occhio del creatura. O correre in mamma, forza dei padri. E manere i vecchi. La forza dei padri. Sui voci forti da svolna ribellà. Sui voci forti da svolna. Sui lacrime e dolore, a forza la respirazione. L'amore va a vita. L'amore va a vita. Sono uomo. Sono uomo. In questo momento che la morte non vuole, mi sento né tutto. In questo momento che la morte porto tutt'ali. Mi sento né tutto e porto tutt'ali. Io so tutto. Io so tutto. E tutto so io. Tutto so io. Prima di quando che spazi, prima si potevano trovare una loggia migliore. Dato, non ho di pazienza, che la mossa di Bernardo sui tre ore tutta per noi. Che pazzi, pazzi tu. Intanto non ce la faccio giù a stare lì mie, te mi fanno male le mie. Tengo sete, tengo fame, tengo su. Oh, padonna, fai l'uomo resisti! Andai! Poi, ci vedi, mi dà paura, stai pazziando. Ma ti come belle. Oh, che bello schiappo rosso, così non faccio. Ma, che c'hai nella mano? Oh, un bel pezzo di pane. Ce ne vuoi dare un po' pure a zio Totò? Toto! Fosse caduto che a capaldè! Tu lo parlavo con gratu! Ma non mi credi, c'è oggi di questo! Oh, non puntata! Non puntata! Che tieni? Non ti sento buono? Già faccio più. Che? Ehi, e trattieni, non ha poco tornare a magassi, eh? Trattieni, trattieni, sto proprio su frenna. Ma poi, allora sei nato sul gente, fa una cosa, pare da chi l'angurilla. Zitto, metta posa, c'è una gente a e dottor, si chiede una cosa naturale a far pipì, pare dall'angurilla. Ehi, ehi, basta, mi è passato, bu, sto buco. Mi è passato? Sì, sto buco. Len. Len, non vado più, dai. Si scemo, Len, basta. Basta, Lenù! Zitta! Sono fornuto il bombo e potremmo tornare a casa. Mamma mia, non ce la facevi più meno male. Oh, ferma, dove vai? Perché? Non potremmo uscire. Perché? Ma come, perché sono 10 a sera. E beh? Ma come mi avete scordato? Che lo c'è sto coprifuoco che stiamo a dire fino alle 8 a sera. Non potremmo uscire. Mamma mia, io come faccio? C'è sta sempre l'angolino. Grazie, Lenù. Iaga, si tenga però niente. Ah, Toto, tu stai qua, eh? Oggi te fondo da facciamo un po' che però finta. Meglio. Mi sto con un po' di disposto. Allora, oggi ci stanno in stato di una furna. E che so? Cadini a casa tua. Toto, l'ospite con mio pesce, lo potrei più orno puzza. Meglio, Lenù, un po' che pietà. Io sono in galera, ma mangiamo pure la galera una pulita. E poi tu sai, mangi come la uccia lui. Babboia. Allora ti vado a preparare un piatto speciale solo per te. Ah. Oh, Raul, sei contenta? E che? È il fornuto della miseria. Però diamo allora, perché quella là si aspetta sempre Pappaniella. Pappaniella? Oh, figlio piccolino, è una concetta. Una concetta? Una concetta. Allora, la casa sua è a via Marina e mo sta insieme a noi. Ah, vabbè, allora come mette l'occhio? No. Perché? chi lo posto non andò? E non mi chiarire lo sta sul. A persa la sua famiglia per colpire un bombardamento e mostra insieme a noi. Non c'è problema, tua donna Satà. No! E perché? Chi lo posto mi? Piuttosto, è pronto, mi sta salendo la fame. Ah, è pronto, è pronto. Che l'ha da cuocere almeno 6 ore. E poi ma gira, gira, gira. Ma giraga. Ma diciamo una cosa, le nuvole, le misatre, il giulè. Come una bella racchia rossa, rossa. Oh, il cipolle, ci stanno il cipolle. Bella rosolata, rosolata. E un basilico? Ma non ha finito a dormire in da stanza? Sì, sì. E mi raccomando, non discuto un po' di sale. E che sono scemi. Fammi, fammi. È pronto! A me doppia pozione! Sì, sì, pure 3 piatti! Tieni! Ah! Carrube bollite! Ma come antipasto? Antipasto, pranzo e cena! Sì, ma ha diventato peggio di maiale! No! Tu ti sbagli, Lenù! Tu ti sbagli! Caoi! C'è sta una grande tavola a parigiardini e rompe tutti i pesci! Toto, perché ci hai perso il cervello? No, perché che la fama fa brutti scherzi. Ma non guarda quell'occhio, lei non ha uso con che fantasia. Non ne sente il profumo dall'aria. No. La fantasia, lei non ha fantasia. Che c'è stanno pianti, ma caruno con roba e l'arraggiata, arraggiata. E ta-tam, un roto forno con un bello capretta, così alla patata, c'è stato il rosmarino e cavolo, il cane, c'è stato una grande mozzarella, capra, capra, callosa, su cosa. Si squaglia in bocca, non piensi in mano croccante, un bicchiere di vino da sangue, dolci in funna, non prendo un babà. Non c'è un bicchiere, pistacchiere, una tazzolina di caffè, che a Napoli non ci ha mai mancato. Che dici, questo è proprio un pranzo reale. Toto, io faccio tutto quello che dici tu, mi impegno. Ma sembra che rubo, venga. Lei non ha fame, non fatica, fuori di capo. Sciò, se non ci pensi, ti passa. Toto, ha fame, fame. La fantasia. Aiutami a sparecchiare, oi. La fantasia. Ci spiego tu a Rosario che la fantasia crea guerra. Perché che sta? E che sta? Che sta? A ieri, a vicere, è venuto vicino a me. Mi ha abbracciato e mi ha detto... Lenù. Mamma, morimmo tutto quanto. No, ma che dici? E non mi crea quella. Niente, non ti preoccupare. Ma quando si muore? Quando una diventa vecchia, vecchia. E io sono vecchia. No, tu sei piccirella. E mamma, papà, nemmeno. E Anna, Titino, Dora, Giovanna, di scienza. E tu? Non me la fa solo, lei non. Popola creatura. E l'ha già stretto in dei bracci miei e ci ha già puntato una favola per fare un mio. Ce l'hanno pochi di pace. Ma tu mi dici pochi, se io non sto amando qui a ricciurità a casa sua. Ma parla ora, tra la che ti rischia e ti spara. Ma da fornito, tu. Non so perché andare così. Guarda che c'era. Chi voglia sci, voglia sta mezza gente, voglia ridere. Ma manco sci, ma tu. Quanti volte ho desiderato pure io fare l'attrice. Non poteva imitare i gesti e i smorfi del dito. E poi mi cosevo pure i vestiti come mi portava nell'osso. Mi concedete questo ballo? Se proprio insistete! Lasciatelo! Che vi dica che sono felice e che vi sono riconoscente. Vi prego, non mi ringraziate. Perché? Perché non so in coscienza se lo merito. Ma se voi sapeste, Emma, come sono sicuro adesso che posso dedicarvi tutta la vita per rendervi felice. Io non vi ho mai parlato di quanto io abbia atteso, Emma, e di quanto in questa lunga attesa io mi sia stata vicina e vi abbia osservata. Ma se mi avete osservato, avrete notato che fra me e... Ho capito anche questo, sì. E allora, avete anche capito che accettando di essere vostra moglie, ho solo obbedito a mio padre e a mia madre. Non è molto, ma è già un principio. Più in là obbedirete all'impulso di essere la più cara delle mogli. Non ci contate troppo. Non te l'aspettare, diciamolo, sono pronto a tutto. E chi non poteva immaginare, no, tu tieni un futuro assicurato. Però a me devo azzardare, è sempre a me devo azzardare. A me devo azzardare, che tieni giù i miei, è solo bello. È bello, niente, niente, che la bellezza è importante. Per me l'umanità si divide in belli e brutti. E bello quando fa tutto quello che vuole, e brutti invece. Per fortuna, io sono bella. E io sono brutto. Grazie, Renu. A te, Ocino, dai tutto un capo. È bello, Ocino, ma tanto ti fa scordare tutti i problemi. Sì, è bello, Ocino, però è bello pure a tenere una famiglia, a curare una casa, un marito. No. Toto, e chi te lo geni si metterà a cucinare cose, raccagnare i pannolini, a lavare, dirà? No, a me mi piacciono le cose belle, belle come papà. Che la colpa è da guerra, che ti farà venire la voglia della pazza gioia. Ma poi quando ti sei levato lo spizzo, no? Quando la frenesia è passata, in futuro non pensa a possibilità e te li non mancini, vedevo bene. Boh, chissà. Ma futuro non stai oggi, Toto. Ma non è il momento di pensare di male, non ne ho mai pensato oggi. E oggi non è il tempo, amore. Io non voglio perdere manco un minuto la vita mia. Lino, ma tu... Cioè... Io, no? Cioè tu e io e tu. Tieni qualche simpatico, qualche guaglione. Sì. Papà. Forse che stia l'ultima volta che ci vediamo, sai? Nella trovata del nostro caro amico Deutschland School. Tutti gli uomini dai 18 a 33 anni sanno mettere spontaneamente a disposizione dei tedeschi per gli affari ai germani delle industrie belliche famose. Spontaneamente? E voglio vorrei proprio che i napolitani sia presente, voglio vorrei. E mi riferisco di qua. Dice che Hitler era a disposizione di rendere Napoli in cenere e fango. Se vogliono pigliare l'uomo e vogliono distruggere Napoli. Guidenu! Ah, giù, tu stecca? Ah, tu sei più di capace acqua! A fare la camminata, perché che ci fate male? Che fate male? E te ne esci, ti stanno tra senorità tutte le case in Napoli, posso pigliare l'uomo. Se vanno portare la Germania a fare schiava! Scusa, ma non arriva a essere una decisione spontanea e volontaria? Volontaria? Volontariamente obbligatoria! Chi ne si sono presentati solo 150 vaglioni? Loro se ne aspettavano 30.000! Ma a scuola è stato un mio pazzo! Hai tirato a strollare la forza tutta Napoli! Oh mamma mia, come faccio? Io non voglio in Germania, la fa finta! Noi non facciamo che cosa, aiutami! Calma, tu ci vuoi? Ti andai a scondere fino a quando non passo per io! E a tua maga! Vieni qua! Oi, oi! Lasciami andare, ma che è tutto povero! Lenu! Chi è? Sono io! Che vuoi? Non è sicuro in dall'armadio, è troppo scontato! Pure lì nei film, prima posso stare guarda, ne sei in dall'armadio! Hai ragione! Tu lo fai di me? Chiudere l'occhio, non ti preoccupare. Ma già chiudere l'occhio. Fatta non hai coraggio, vieni. Ma che può fare? Vieni. Che può fare? Vieni. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Dai, che sai, ci può stare. Lenu, Lenu. Ma mette paura, beh. Arab, arab, arab, arab. Giuaro, per pochi tempi da bimbo. Stato solo, più tardi ti porto pure a mangiare. Ma tu sì. Pazza! Io mi metto paura, che fuori fa fritti, sono procure per piccere, si vede che ho! Arava, arava, arava, arava, arava, arava! Quanta vizia che tieni! Scinna! Ma dove già mettere, ma tu non stai buona a nessuna parte! Ma pigliamolo sopra, mobile, ma pigliamolo! Faccio trovata! Che trovata? Scinna! Ora già scendere, mo! Scinna, scinna! Giovanni, che stai buona una scandiglia! In da fogna, ma puzza, come la rimettere? Guarda, uomo, che scinna, non fa preziosa! Chiana, chiana, mi fai sbattere la faccia in terra, chiana! Ma quando ti rimangi a staccati? E no, una giornata, una settimana, un mese, un anno, una vita, che io so! A chi? E chi ce la fai, camore? È meglio che me la vado in Germania! Come it? È meglio che me la vado in Germania! No, prima! A chi? E chi ce la fa? No, a roba! Prima, a roba! Ah, il camore! Bravo! lucida, lucida. Arava Ah! Lo sapevo! Che sapeva, lei non parla, parla, per piacere, non mi fa mettere paura. Mamma mia, come brucia! A me non mi pare. E quando il chiazzo rosso le tiro faccio? E chiazzo rosso è che sua varicella, un morbillanzo alegre. No! Che stellebra! Mamma mia, guarda, non mi sento male. Su, su, non è niente, eh? Ah, non è niente, cada mamma mia, mamma mia. Tiene del gappo, niente, è niente da chissà. E che... Uèè, sciò, sciò, se ci vuoi, sa porta a Ma come la dritta soffre? Come soffre? Ti ha la mandà. Ma perché? Che fa presto, muovete, non fa troppi domande. Non ne senti i tedeschi, stanno arrivando. Mamma mia, noi che facciamo? Tu stimi, dalla mia te fanno fanno. Poi, la Madonna c'è un compagno. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria! Ah, finalmente siete arrivato! Via da mio fratello, chi lo dà la lebbra, ci metti papà uno che ci ha messo. Via da villa, via da villa. Voglio donare i miei ultimi giorni all'anno di San Germania. Fermo, fermo, ma tu hai aspettato, non siete scordati mio fratello, aspettate un momento. Mio fratello, ti scordate. Voglio venire a Bellino con voi. Vuole venire a Bellino vuole venire, a Bellino. Se ne sono io. Sono volata. Ah. A quest'ora già stanno a Germania. Mamma mia, quali paura ci abbiate. Ah. Fammi la sta cosa a capo io, è sta brutta male. Giovanni, ma fa qualcosa, non potremmo stare che male a male. Tu li smetti contro l'armata tedesca, mo. E allora sta così. Zitta rassegnato mentre i tedeschi fanno i padroni rinda a casa nostra. Linu, la guerra non è così film. Giovanni, la guerra non guarda faccia a nessuno. Cioè, non è uomo, non è vecchio, né picciolino. La guerra non fa differenza. Ma la gente, senta, vela, parla, dice, Linu. E che dice la gente? E che dice? Una giovane guaglione non si avesse preoccupato troppo da guerra. Avesse pensato a casa, a famiglia, non avesse stato troppo appresso all'uomo. Sennò qualcuno può pensare mai. E tu che pensi? Io? Tu mi sei sopra. O sacci che sei una femmina onesta. Ci mette la mano un coppo fuori. Ma il parola corre, nemmeno. Sono pesante. E fanno una parivella e una bucina. Ma che può fare? Se l'uomo non sanno a nascondere, c'è mai pensato in femmina. La gente fa la parla. Signori, che volete? Non vedete che stiamo chiudendo la baracca? Qui non c'è più niente da fare. Mariscia, ma ci serve una mano, le armi. Tutto quello che te posso dare è la mia pistola e una ricina di bomba breda. Nient'altro. Mariscia, ma andate a dire se ve le preserisce. No, preserisce. Che Hitler vuol distruggere una. Sì, e io che ci posso fare? Ma come? Che potete fare? Se volete le armi dovete andare alla caserma di Salvador Rosso. Forse là cocca da cosa è rimasta. Successo a tutti quanti oggi. Vogliono distruggere Napoli. Tutti i napoletani a fare gli eroi. Qua stiamo saltando in aria, ma non sapete che cosa è successo a Vicotrone. Che cosa? Ci sono dei tedeschi chiusi in una fabbrica di scarpe. Sono entrati per rubare, ma li hanno scoperti. Adesso sono bloccati dall'interno, tenuti sotto tiro da uomini armati. Ma quello che è peggio è che i tedeschi minacciano di far saltare lo stabilimento con tutte le case vicine. Chi lo fa ne sai quando morte. Sono in cinque, non possono resistere a lungo. Occorre che qualcuno ci porti la rete. E ci paghi? Tanto che mi fanno fa. Ci andresti? Se mi date le armi. È una cosa pericolosa, ma vada in data. Se ci riesci torna, ti darò del 91 con le tartucce. Però mi raccomando, sta d'accordo. suicidare se non io sparare! Arrendetevi! Ormai non c'è più niente da fare! Soldati del Führer, non arrendere mai! Ma siete circondati, non avete via di scampo! Non importa, a noi non importa! Guardate che questi non scherzano! Noi siamo onorati di essere soldati del Führer, capito? Guardate che questi sparano! E noi fare saltare tutto stabilimento e case vicine! Ma siete sicuri? Ya! Yeah. Sicuri sicuri? Ya yeah, ya! Yeah. Guardate che questi non scherzano! Noi siamo onorati di dare nostra vita alla nostra grande Germania, ai Hitler! Spara, vuoi you! No, non sparate, arrendere immediatamente, fare quello che vuoi volere! Bene, bene, se abbiamo bisogno di te ti chiamiamo a chiamare, non dubitare. Mariscià, non vi scordate niente. Oh bene, che mi ci voglio? Ah, scusami, quello del periodo non ti permette di curare le buone maniere, buona giornata. Mariscià, ma quando saluto e saluto, voi mi hanno promesso di fucile. Oh veramente, se te l'ho promesso, devo stempitarmi, ogni promessa è un debito. Bene, bene, camerata, camerata, mi dai tutte le fucile che ci sta. Come non ci stanno i fucili? Quella mappa alla scrivania, quella arrugginito. Quello senza cartucce. Vedi altri fucili, che l'unico c'era sta, a parte kill. Ma riusciai, mo che ci faccio con fucile vecchia senza cartucce? Questo abbiamo e questo vi diamo. Con tutto rispetto, ma se non fosse fatto visto che ho portato proprio a sappacca. Signorina! Potete sempre fabbricare le Molotov con le bottiglie. Ci ascolta un'amica. Shhh, ma non è mica o fascista, fascista. O nazista. O fascista o nazista. Ma che stai facendo? Sto preparando il Molotov. E questo? Sono bombe fatte in casa. Dammi una mano. Come si fa? Io non lo so. È facile, me l'ha spiegato un maresciallo Salvatore Rosa. Allora, se pigli una bottiglia, se regni con un po' di benzina, se metti un fazzoletto attorno e... Ta-da! La bomba è pronta! Forza, buttami in mano! Uno, due, tre! Zitto, zitto! Hai sentito qualcosa? No! A quando stavamo? E ci si ricorda, cominciamo qua! Uno, due, tre! Tato! Tu come punta? Tutti notizie, tutti notizie! E le tedesche quando fa stata un po' andata di trainare! Mamma mia! E tu che dici? Non ti preoccupare, anche tuo padre si è appostato con quattro vogliono coppa da terrazza a fianco a palazzo dei Filippini, là, dei Filippini. Stanno sorvegliando la coppa, si vedono con che tedesco, fanno passare un brutto quartrone. Totò, lo spicciamoci, accostiamo pure un coppa da terrazza. Ehi, allora. Uno, due, tre, zitto, zitto. Stanno venendo i tedeschi. Hanno spugnato Totò. E tu? Non ti preoccupare, sto femmine che da me non mi fanno proprio niente. Ma che, i dacci a problemi, se non ti passerà sta solo. No, fanno un messaggio lì, non è spugna. E poi pure. Ma la comanda, oh, non c'è da. Cosa? Non capire. Ponte Sanità, eh? Ah, dove si trova? Di là. Con tutte le bombe Molotov. Papà, lo tedesco vuole un carro armato, insomma, papà, non ci ho capito niente. Lo tedesco mi ha chiesto lo stevo contro la sanità. E io la ci mandata che l'ha da parte, solo che non muore a poco tornano. Papà, è un momento di cacciare sti tedesco. Purtroppo abbiamo trovato pochi anni, però hanno buttato una cinquantina di bombe Molotov. Mo sta mi cambi, però ne mano pure lui. Andate c'è cucina. Forza, vai giù. Facciamoci una campata di mafata, sti fatiente tedesca! Goppo, Lindo Pagliarone! Una truppa napolitana ha salito un'autocarra tedesca! Io ce la fa, tutto Napoli si è rubutato! La sanità, Ovast, Salvador Rosa, Capimonte, Ponticello, Poggio Reale! Datemi un fucile! Napoli è la città mia! Pure io ce la fa, a San Giandevese una truppa napolitana ha salito un'autocarra tedesca che era diretta a Capimonte! La gente si affaccia le finestre e botte mobile la coppa a bacio in cave tedesche. E non ci ho mai visto quando la napoletana insieme che si aiutano, che vogliono fare qualcosa per tutto quanto. Perché stiamo a guerra nostra. E vecchio, giovane, femmina e uomini. Nessuno si è tirato la rete. Uè, Gennaria, tu che ci fai qua? Torna subito a casa che ti fai male. Ma quello fucile? E si colongo un fucile mano a te, non vuoi? Vattene, Gennari, vattene! Gennari, ma non posso stare presso a te! Che? Quando prendesci la guerra che vuoi fa? Ma vuoi? Babbo, ti prometto! Però mo Gennari, vattene! Gennari, ma non posso stare presso a te! Ma che resto, Romano? Mamma mia, che sta succedendo? Ma non c'è Gennarino! Ma dove sta Gennarino? Sta qua Gennarino! Dove sta Gennarino? Non so dove Gennarino! Non c'è lasciato sta. così. Non paro proprio un soldato della grande armata tedesca. Mi fai proprio paura. Tu sur. Triemma. Come lui. E forse in questo momento stai pensando a tua mamma. Ha una famiglia da te. E figli. E allora va. Va. Tornate in Germania, va. Non mettere più per andare. Guarda veramente lì dall'occhio, ma... 29 settembre 1953. Oggi è un giorno importante per me. Che ho passato a terrazza proprio 10 anni fa. La granata tedesca si è avviata a vita in animi innocenti. Gennarino Capuzzo, mio cugino. Ogni anno io stessi giorno torno a casa. Ho passato il razzo. A così mi pare non lo perdere mai. Oggi Gennarino te ne sta la stessa età tua. E forse pure le stesse occhi. E per questo che t'ha chiamata Gennaro. Perché hai visto? E nome? Perché è essa? E pensa come voleva. Io già fa, uè. Avrei pure la città mia. Pure io già fa, uè. E poi quando finisce la guerra, dimmi. Chi te voglio sposare? Papà, aveva ragione mamma. Sono proprio una pazza.